Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Eccomi qui, io sono tornata. 800 24 00 24, se siete tornati anche voi. Oggi ripartiamo insieme. Dopo la pausa estiva bisogna riprendere il passo. Anche chi non si è mai fermato deve trovare un nuovo ritmo. A settembre, care amiche, cari amici, va così. E questo ancora più di gennaio, è il mese dei buoni proponimenti. A domani, da domani, io voglio smettere di fumare. Questo vizio che mi avvelena è peggio di una nuvola che copre la luna. Nell'istante che mi tuffo nel cielo, come un uccello che prende il volo, è tutto grigio, tutto scolorato, come il giorno che mi sono fumato. Smettere di fumare, mettersi un po' a dieta, andare in palestra, dedicare più tempo ai figli, perfezionare l'inglese, buoni propositi, li facciamo tutti, forse anche questo aiuta a ripartire, a scrollarsi di dosso quella sorta di malinconia mista a una diffusa sensazione di malessere che caratterizza spesso il rientro. 800 24 00 24, a settembre riparto da, riparto con, aspetto le vostre chiamate e intanto noi oggi cominciamo la settimana con due ospiti molto speciali. Il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, bentornato. Oh, bentornati a tutti voi che siete ad ascoltare. E il professor Giampaolo Perna, psichiatra e direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Casa di Cura San Benedetto Menni ad Albese. Buongiorno a tutte e due, un classico buon proposito del dopo vacanze è darsi una regolata, dottor Speciani, mangiare un po' meglio, che è sempre un'ottima idea. Allora, se i nostri amici da casa, le nostre amiche sono interessate a modificare il loro stile alimentare o, perché no, a mantenere le buone abitudini che hanno imparato in vacanza, questo è il momento di mettersi in contatto con noi. Intanto, dottor Speciani, questo è un buon momento per mettersi a dieta o meglio aspettare qualche giorno per essersi un po' assestati? Ah, è un fantastico momento perché siamo carichi ancora di tutta una serie di cose positive, dei colori, delle musiche, del riposo, e quindi non va disperso, ecco, questa è la cosa fondamentale. Per cui, ad esempio, la cosa, ci sono alcuni elementi che io giudico sul da fare, mettiamoli pure in ordine in un certo senso. Per cui la prima cosa è mettere in agenda un'attività con un amico o con un'amica, dipende, sì, poi dagli equilibri familiari, questo sì, non lo so, ma va bene. Per cui fosse anche solo andare a girare per il parco nell'intervallo mensa, ma darsi un impegno con qualcun altro, che quindi ognuno fa da sostegno all'altro. E poi io trovo che tra le cose bellissime da fare adesso è di definire una prossima vacanza. Io ho obbedito, ieri sera, domenica, ho finito di scrivere due articoli di cose, poi mi sono messo lì e ho detto: dunque, farò un weekend lungo nel 2016, cioè di identificarsi degli spazi in cui uno inizia a sognare, a mantenere degli spunti, una proiezione, una attraenza, un'intenzione. E poi sicuramente qualche correzione alimentare, dai, ci sono quelli che durante le vacanze sono asciugati, a posto, eccetera, però la maggior parte delle persone che vedo sono tendenzialmente un po' ammorbiditi, che uno dice: perché la bronzatura che mi fa più pienotto in realtà. Ho le ossa grosse. e quindi queste sono le cose da fare, alcuni piccoli cambiamenti ci sono, e rispettare il sonno, questo sì, secondo me cambia, si vede subito, quando adesso tra poco avremo anche, tra un mesetto cambieremo l'ora legale, però già si, insomma, il sole adesso tramonta alle 6:15, 6:20, 6:30, per cui è un momento in cui l'organismo sente degli stress emotivi, poi sono sicuro che ne parleremo assolutamente, e quindi se abbiamo sonno, rispettarsi, perché sennò la tendenza è: tanto vabbè, ho dormito durante le vacanze, adesso no. E invece non iscrivetevi in palestra se non volete andarci, buttate solo via denaro, fatelo solo quando ci volete andare. E per favore, la luce è poca, cerchiamo di camminare, di muoverci, di fare qualcosa, come abbiamo detto con un amico, cerchiamo i colori nella frutta, c'è il blu adesso, c'è l'uva scura, ci sono i mirtilli, ci sono una serie di cose bellissime, pieno di antocianosini che fanno benissimo a tutto, e se trovo uno che salta la prima colazione, lo mordo, cosa posso dire? Ce lo mangiamo a prima colazione. 800 24 00 24, quindi regoliamo l'attività fisica, riprendiamo a camminare, a muoverci, chiedendo l'alleanza con un amico o un'amica proprio per avere un supporter, quindi attività fisica, dieta giusta, approfittando dei colori, lasciamoci guidare dai colori, il sonno importantissimo per ricaricare un po' le batterie, è fondamentale. Ma io credo dando credito alle proprie capacità di percepire queste cose, rispettiamoci, questa è la cosa fondamentale. Non vuol dire dormi per forza 8 ore, ma come se c'è una serata bellissima, l'unica serata che uno può andare in discoteca con una serie di amici e goditela, però quando il giorno dopo senti sonno, capacità di dire ho sonno, il mio corpo mi chiede qualche cosa, ascoltare. E a guadagnarci sarà anche l'umore, perché professor Perna, che se ne dica, nei giorni scorsi è uscito uno studio che sosteneva la sindrome da rientro non esiste, in realtà magari non esiste, però noi ce la sentiamo addosso, un po' di stanchezza, di un'apatia, un po' di malumore, quella sensazione di non riuscire a farcela, perché se andiamo indietro nel tempo, ma io facevo questo, ma adesso non c'ho la forza. Ecco, tutto questo viene in qualche modo a caratterizzare il nostro rientro, ma noi abbiamo gli strumenti che ha sottolineato il dottor Speciani, quindi il sonno, l'alimentazione, che c'è l'attività fisica, che aiutano e influenzano anche il nostro cervello. Beh, quello che ha detto il professor Speciani è giustissimo, bisogna seguire questi elementi, questi stili di vita. L'elemento in più forse è che tutto questo può essere fatto alla luce del sole. La luce del sole è un elemento cruciale per l'umore, questo ormai è ampiamente dimostrato, e il fatto che si avvicina l'autunno fa sì che noi rischiamo di chiuderci al buio. Quindi famosa passeggiata con l'amico, un'attività fuori. Il fatto di curare bene i ritmi del sonno vuol dire agire esattamente sul ritmo sonno e veglia, sulla luce. La luce del mattino soprattutto è preziosissima per il sonno. Esistono delle vere e proprie terapie per la luce, no? Della luce, con una luce speciale che mima il sole del mattino e che sono capaci di attivare proprio la melatonina, la serotonina, che sono quei trasmettitori chimici legati al buon umore. Per cui esponetevi alla luce del sole, fatelo in compagnia, fatelo fuori. Questo sicuramente darà quel brio all'umore che, invece che cadere pensando all'inverno che si avvicina, riuscirà comunque a mantenere quell'energia che ci permette magari di realizzare i buoni propositi. E a proposito di buoni propositi, ne facciamo tanti, queste sono le indicazioni dei nostri esperti. Qual è il proposito che pensate di fare o avete fatto per ricominciare l'anno? E questo è un po' il vero inizio d'anno. Per alcuni sarà imparare una lingua, rimettersi in forma, affrontare anche l'ansia, lo stress che il lavoro procura in modo diverso, prendendosela un pochino con un distacco, che non significa una mancanza di desiderio di fare bene, ma ecco, di non lasciarsi divorare dall'ansia. Per alcuni sarà anche mantenere le buone abitudini che si sono prese in vacanza. Molti di voi mi stanno scrivendo della famosa colazione, forse intimoriti dal dottor Speciani, che dice se qualcuno che salta la colazione. Perché in effetti da questo piccolo pasto quotidiano con cui iniziamo la giornata prende tutta un'altra piega. Dottor Speciani. Sì, questo è assoluto. Poi chi ci segue, è abituato a seguirci, sa che è un tema forte, proprio perché i primi segnali che si danno all'organismo in un momento in cui ha un bisogno di energia, nel momento in cui l'organismo recepisce che esiste un segnale di ricchezza, parte tutto un meccanismo da ricchi. Cioè può consumare energia, consumare calorie, mettersi in moto per essere creativo, produttivo. Poi potremmo anche così annoiarci un po' raccontando che questa cosa avviene perché viene prodotta della leptina, che va a stimolare i nuclei del cervello, eccetera, che sono tutte cose peraltro scientificissime e documentabilissime, ma l'elemento cardinale è che alla fine va a sviluppare esattamente quello che il professor Perna diceva, cioè andiamo a stimolare la produzione di serotonina in maniera semplice, cioè siamo di buon umore senza spendere e quindi, nulla. Quindi andiamo in ufficio al mattino, caffè con latte, 2 mele, goji con yogurt bianco magro, va bene, ci scrive Francesco da Varese? Sì, come bilanciamento di carboidrati e proteine c'è la sensazione che sia pochino, nel senso che questa roba predispone al fatto che nel corso della giornata, se lui, questa persona, si muove solo appena un po', andrà in eccesso. Io tendo a segnalare che la prima colazione deve essere quasi il 40% della giornata, no? Quindi di metterci dentro, di mettere dentro dei cereali in più, di mettere dentro, anziché uno yogurt 2,5, inserire un pezzo di salmone, cioè aumentare la quantità. Però il bilanciamento non era malvagio, devo dire che può andare bene. Faccio una domanda io, le uova la mattina, cosa ne pensi? un sorrisone, fantastiche. Io dico che insieme col piano Marshall nel 1948 ci hanno portato l'abbattimento delle uova, che una volta erano nel backyard, nella stanza di dietro, nel cortile di tutte le famiglie, anche borghesi. E io mi ricordo di essere venuto su, in cui in tutte le famiglie in cui andavo c'era ti do l'ovetto, e c'erano i bar con dentro le uova. Io sostengo, ma non perché lo sostenga io, finalmente abbiamo avuto delle informazioni precise sul fatto che le uova sono sdoganate, non sono questo terribile, cioè voglio dire, una pasticcino, una briochetta fatta con i grassi idrogenati vegetali genera molto più colesterolo di quanto ne generi un uovo, quindi viva le uova! Viva le uova, biologiche è meglio. Biologiche è meglio, un uovo al giorno. Anche due, levano il medico di torno. E mettono il buon umore. A proposito di buon umore, professor Perna, sappiamo che ci sono degli alimenti che in qualche modo aiutano a tenere un pochino sul morale, che in questi giorni di ripresa è un po' messa a dura prova dalle incombenze quotidiane che ti dicono le vacanze sono finite. Ma io do un suggerimento, non sono un esperto come il dottor Speciani, però per esempio il curry, io adoro il pollo al curry. Mm-hmm. Il curry è al una mattina spezia, è un po' dura, però. Al mattino è dura, è vero, il risveglio è dura, però durante la giornata, almeno credo poi il suo parere, credo che sia uno degli alimenti forse più interessanti oggi per l'umore. Prego. Posso? Stavo uscendo stamattina, ero indeciso su un articolo da mettere su Aerosalus, poi era questo. La curcuma, cioè la base del curry, è ormai documentatamente un prodotto, è uscito un lavoro bellissimo, analogo come effetto a quello di molti degli antidepressivi utilizzati come farmaco. Questo vuol dire che abbiamo un effetto specifico di alcune sostanze, vedi il curry, che è buono, forse non sarà da mangiare al mattino, non è vero, in famiglia nostra lo mangiamo anche al mattino, però è solo un problema di abitudine, però mangiamolo a pranzo, insieme al riso integrale, insieme al pollo, insieme a qualsiasi altra cosa, però la curcuma, che è alla base del curry, è uno dei più potenti antinfiammatori e antidepressivi naturali che ci siano in natura. Te ne do un altro, volevo sapere il tuo parere sulle noci, no? Ah, ma lui è il dottor Noce, ma l'avete pagato, cioè il dottor pagato. Speciani sotto, ecco, noci, nocciole, risponda, non ci siamo mai incontrati prima, no, esatto, quindi diciamo già. No, però mi sembra che l'abbiate pagato, cioè mi apre, io sono, mi chiamano il dottor Noce per l'appunto, perché... Quindi ricordiamo, la colazione, inseriamo i cereali integrali, le noci che sono assolutamente importanti per la nostra dieta, il dottor Speciani lo sottolinea più volte, due o tre grilli di noce a colazione possiamo permettercele, sicuramente. Assolutamente, soprattutto a prima colazione possiamo anche saziarcene. E poi, se invece siete i tipi che di solito fanno magari una colazione un pochino troppo leggera, a metà mattina avete fame, prima di addentare una brioche due, quindi portatevele in tasca, un po' sì, come faceva Pollicino con i sassolini. 800 24 00 24, buoni propositi, ma quali sono i propositi che avete fatto voi per la ripresa di questo anno? Noi aspettiamo anche al 349 238 6666, potete seguirci su Facebook e su Twitter. Un proposito di Grazia da Roma è riprendere a finire l'università, seguire lo stile alimentare già impostato e un po' allentato. In bocca al lupo a Grazia, che può seguirci, noi la supporteremo. Alessandro dalla provincia di Venezia, subito dopo Francesco da Modena, ma come sempre io aspetto le mie amiche, le amiche di Essere Benessere. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Ok, volevo chiedere al dottore se la dieta che seguo io, cioè, può andare bene. Praticamente io allora al mattino, prima a stomaco vuoto, questo lo faccio ogni 4 mesi. Adesso sono a 9 limoni. Praticamente parto con un limone e ogni mattina aumento di uno, arrivo a 10 e poi riscendo a 1. Ok? Sì. Questo per pulire il sangue, che so che mi fa bene. Poi per colazione mangio il lunedì, il mercoledì e il venerdì 40 grammi di pasta. Sì, ecco, sul dettaglio Alessandro rischiamo di perderci. Iniziamo dai limoni, da questo frutto che ha numerose proprietà, l'abbiamo citato, c'è uno studio bellissimo del Mario Negri sul limone del siciliano, che aiuta a prevenire anche le coliche renali, ma c'è sempre un discorso anche di quantità. Sì, direi che quello che ha detto Alessandro, cioè che fa questo tipo di ciclo in realtà ogni 4 mesi, non lo espone a severi problemi. Capita di vedere situazioni in cui l'acidificazione diventa eccessiva perché viene apportato un quantitativo elevato di limoni per un lungo periodo. Quindi se è bilanciato con il resto va benissimo, e come lo sta facendo Alessandro, non controindica, cioè c'è proprio un'autolimitazione. Però è vero che qualche spunto c'è. Devo dire che da questo punto di vista poi l'utilizzo di alcune terapie che fanno parte un po' della tradizione, la dieta dell'uva nel periodo della vendemmia, cioè ci sono degli elementi che vengono dalla tradizione storica, che fanno parte un po' di un elemento di ripulizia, che hanno una valenza sia simbolica, credo, e qui Perna mi aiuterà a decifrare questo aspetto, cioè mi ripulisco, che è già un atteggiamento mentale fantastico per affrontare un periodo. Mm-hmm. E poi mi sembra che lui, ad esempio, essendo partito con i suoi 40 grammi di pasta, vuol dire che mette dei cereali base forte, importanti, a prima colazione. Anche da quel poco che ha detto si coglie che Alessandro sta partendo con una prima colazione seria. Quindi... Alessandro, quindi lei prima colazione seria? No, ma calma, la pasta la mangio il lunedì, il mercoledì, il venerdì, perché poi a mezzogiorno e mezzo vado in palestra, quindi ho bisogno di carboidrati perché ho bisogno di forza, per quello la mangio la pasta. Sono gli altri giorni, ovvero il martedì, giovedì, sabato e domenica mangio miele con cracker integrali. Vabbè, sempre, cioè c'è una componente di base di carboidrati buona. Quindi dai. Alessandro dalla provincia di Venezia, cosa, promosso? Secondo me gli manca, dalla descrizione manca qualche proteina al mattino, l'uovo di cui parlava prima il Perna, che segnalava. Però invece la base di carboidrati, di sostanze naturali, di frutta e di verdura mi sembra che ci sia, quindi bene, dai. Francesco da Modena, buongiorno anche a lei. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti i suoi ascoltatori. Volevo fare una domanda. Io ho praticamente 2-3 kg di troppo e volevo un po' asciugarmi a livello della pancia. Quindi io prima di fare colazione la mattina faccio 3-4 km di corsa solo bevendo praticamente un caffè. Poi ritorno a casa, faccio una tazza con yogurt magro, proteine in polvere, un po' di cereali, un po' di marmellata, tutto insieme praticamente. Certo. Volevo sapere se poteva andare bene o se dovevo aumentare, oppure se dovevo come fare colazione prima di correre. Grazie Francesco. Volevo approfittare della domanda di Francesco per sottolineare un aspetto molto importante, un nuovo modo di allenarsi, dottor Speciani. L'attività fisica cambia forma e diventa un messaggio che arriva all'organismo per sbloccarlo e per aiutarlo a perdere, a smaltire qualche chilo. Dunque, diciamo che le indicazioni date adesso sono positive, per cui di solito l'attività fisica è da fare a scorte piene ma a stomaco vuoto, quindi giustamente il correre a stomaco vuoto al mattino solo con un caffè piuttosto va benissimo. Però è vero questo aspetto, e che tra l'altro Perna ci aiuterà ancora a decifrarlo se ce la facciamo prima della fine, cioè che si sta scoprendo a livello medico e scientifico che l'organismo risponde a segnali, a messaggi, non solo la quantità di calorie eccetera. Ad esempio il fatto di per tanto tempo si è detto facciamo dell'attività aerobica prolungata, e la mezz'ora, i 40 minuti, l'ora di corsa. Oggi si scopre che riuscendo in 20 minuti facendo delle attività alternate, ad esempio, quindi 30 secondi molto intensi e poi 2 minuti quasi di camminata, 30 secondi intensi, 2 minuti di camminata, riducendo alla fine l'impegno, perché poi ci sono quelli stressati che non c'hanno tempo eccetera, tutto quanto, questa cosa induce degli effetti estremamente positivi sulla perdita di grasso. Noi lo stiamo inserendo già nei nostri programmi di lavoro come una delle cose possibili, ma al di là dell'efficienza, per cui vedi le persone che dicono ce la faccio, riesco anche a anziché farmi l'ora e mezza di palestra, riesco a fare anche a casa sulla cicletta degli elementi più divertenti e più stimolanti. Mm-hmm. La cosa interessante è capire che l'organismo sta rispondendo a dei segnali. Se ne riusciamo a dare i segnali giusti, l'organismo risponde in modo diverso da quello che ci si sarebbe aspettati finora. 800 24 00 24, è arrivato il tempo di dare la linea ai mercati e poi il meteo. Vi invito a chiamare per raccontarci i vostri buoni propositi e soprattutto a raccontarci come state vivendo questa ripresa. Indipendentemente o no che ci crediate che esista la sindrome da rientro, la avvertite, ci sono delle cose che possiamo fare per superarle, per stare bene e per riprendere con sprint. Essere e benessere. Agli uomini in generale manca la costanza nei propositi e ciò fa sì che le loro imprese quasi sempre rovinino. Il difetto di costanza si manifesta in due maniere: o col mutar di segno appena scelto o col mancare di coraggio alle prime contrarietà. Francesco Domenico Guerrazzi, politico e scrittore italiano. Settembre, tempo di riprese, di buoni propositi. 800 24 00 24, qual è il vostro? Pensate di seguirlo? Vi state attrezzando per farlo? Perché a volte li lasciamo perdere, non raggiungiamo i nostri obiettivi, ma non è solo una questione di costanza, ma anche di energia. E tra l'altro di energia, possiamo lanciare un quiz per la trasmissione di oggi. Qual è, nella ideale distribuzione dei pasti durante la giornata, quanto è meglio che valga la colazione? Quindi la prima colazione, parliamo di quella del mattino. Scegliere tra tre ipotesi. 10% delle calorie generali, 40% delle calorie generali, 20% delle calorie generali. Siccome l'abbiamo detto all'inizio di trasmissione, abbiamo già dato un suggerimento. Beh, lei poi, già ci stressa. Al primo ascoltatore che chiamerà l'800 24 00 24, come una pentola a pressione. Un libro del dottor Speciani insieme a Gabriele Pupiuri, che insegna proprio i meccanismi di quel processo di cui abbiamo parlato prima delle vacanze, che è l'infiammazione. Esatto. Che noi provochiamo assumendo alimenti non adeguati e che come una sorta di ruggine produce una serie di malesseri che vanno dall'ansia alla mancanza di concentrazione, al gonfio addominale, alla ritenzione idrica. Esatto. Insomma, l'infiammazione è madre di tutti i mali. A proposito di ansia, professor Perna, non posso fare a meno di chiedere a lei, così raccogliendo molti sms che arrivano al 349-238-6666, qualche consiglio per lasciare l'ansia un po' da parte, l'ansia quella che ci rode, ecco, non l'ansia buona, quella che ci fa andare avanti. All'inizio dell'anno è facile, no? Perché uno fa tanti buoni propositi quando è in vacanza o quando la situazione è tranquilla, dirà prenderò tutto con più calma, basta mettere un piede in ufficio o che i bambini iniziano ad andare a scuola o a ritrovarsi nel tran tran quotidiano ed ecco che ce la sentiamo già qua. A me viene già un po' di che si fa. Ma è verissimo questo. Stavo riflettendo stamattina su che cosa dire, perché un argomento della sindrome di rientro sembra anche molto banale. In realtà ogni anno c'è, perché ogni anno abbiamo il problema di dover passare da un momento relativamente magico in cui ci facciamo tanti propositi e tutti gli anni ritrovarci l'estate successiva ad avere gli stessi propositi, un déjà vu in qualche maniera mai espresso e mai agito. E questo innesca che cosa? Ansia e soprattutto uno scoraggiamento. Cosa possiamo fare? Allora, prima cosa, poniamoci obiettivi più semplici di quelli che sono rimasti un semplice proponimento l'anno prima. Cioè, non è che dobbiamo diventare, no? Io voglio perdere 20 kg. Troppo. No, non va bene questo. Cerchiamo di scriverli e quantificarli, quindi... Per esempio, a me piace giocare a tennis, tutti gli anni dico devo riprendere. E non riprende non mai. Riprendo. Quest'anno devo dire che... La mando da uno bravo, se vuole. Quest'anno proverò a dire vado due volte al mese, al limite parto con poco. Questo poco quantificato, scritto, mi permette poi di agirlo. Questo vale anche per il peso, per esempio. Io perderò un chilo al mese, per esempio. Diventa già un obiettivo fattibile. Se inizio a dire io devo ritrovare la forma di quando avevo 20 anni, è chiaro che le chance di un fallimento diventano grosse. E ai primi intoppi quello che facciamo è mollare. Perché purtroppo la nostra mente tende a mollare quando c'è una difficoltà. Quindi questo è un primo punto importante. Secondo punto, che segue un po' quello che ha detto il dottor Speciani, dichiariamo a chi amiamo, a qualcuno che ci vuol bene, quello che vogliamo fare. Non teniamoci per noi, se non è troppo facile lo diciamo e ce lo nascondiamo. Ed è la stessa persona che ci accompagna a correre per al esempio. Parco. Poi se per caso è molto vicina bisogna dirgli se per caso non lo facessi ti regalo un anello, un gioiello, eccetera. Ma in questo caso avremo qualcuno che giocherebbe contro, no? Che non va bene. Un altro punto molto importante è quello di sapere che cambiare abitudine è molto difficile. Quindi non è semplice, basta dirlo per perché farlo. Perché il cervello, ecco, apriamo una piccola parentesi, così questo perché ci rincuora. Perché il cervello rema contro, è un abitudinario il cervello. Il cervello tende a mantenere lo status quo, no? Lui cerca in qualche maniera, disperatamente, di far sì che le cose non cambino. Questo è il motivo per cui le abitudini sono veramente difficili da cambiare. Quindi il nostro cervello, per chi è andato in vacanza, perché ci sono tante persone che in vacanza non sono andate, ma hanno comunque vissuto tempi più tranquilli, il nostro cervello è ancora in vacanza. Fa più fatica a riprendere, ha bisogno di qualche settimana. Ricordiamoci che non è torniamo pronti e via, ma bisogna in qualche maniera predisporre il fatto che dobbiamo riabituarci. Non sembra, ma è vero che qualche settimana è poco, ma poi le vacanze nella mente di una persona iniziano già a giugno, inizio già a pensare a giugno, cambiano le giornate, poi dopo vado via magari 2 o 3 settimane, ma di fatto la mia mente è stata in vacanza più a lungo. Quindi io mi ritrovo a ritornare in nella battaglia quotidiana e il rischio è quello di essere tramortiti perché il cervello va ancora a ritmi diversi. Quindi facciamolo in maniera molto graduale, soprattutto dandoci dei piccoli rinforzi, cioè ogni tanto bisogna prendersi piccole soddisfazioni. Se io dico io perderò, e questo è il dottor Speciani, 0,5 chilo in 2 settimane, ok, se lo faccio io sono contento, 0,5 chilo è poco, ma intanto io parto col sorriso. Se io mi pongo degli obiettivi sbagliati, poi mollo subito e non riuscirò a farlo. Ricordiamoci che se fosse 0,5 chilo in 2 settimane, alla fine dell'anno paghiamo veramente qualcosa di importante. Purtroppo noi non lo capiamo, e questo vale per qualsiasi altra attività: imparare una parola d'inglese in più, giocare una volta ogni 2 settimane a tennis, alla fine dell'anno pagano. Un'altra cosa cruciale è questa: è molto importante sapere che noi possiamo cambiare se siamo in forma. Quindi torniamo a quello che ha detto il dottor Speciani, cioè va mantenuta una forma fisica adeguata, un'alimentazione corretta, un sonno corretto, perché questo è il terreno che ci permette di mutare, di cambiare. Se già siamo in difficoltà noi nella nostra benessere fisico, è ben difficile che possiamo fare quei salti di qualità di cui abbiamo bisogno. Ultimo punto, e poi ti blocco, che è quello del consolidare le cose. Ricordiamoci che non basta fare una volta una cosa perché diventi abitudine, bisogna ripeterla, ripeterla, ripeterla. Quante volte? Ma dal mio punto di vista è un po' come 21, le poesie. È vero? 21 sicuramente è un buon numero, no? Buttato lì. Va fatto comunque, non bisogna mollare. Non basta aver vinto una volta. Ah, ce l'ho fatta. No, non ce l'ho fatta, no. Perché il cervello che vuole riportarci indietro, chiudiamo gli occhi un attimo e siamo tornati quelli di prima. 800 24 00 24, a questo punto mi viene da chiedere voi dove siete, a che punto siete voi. Daniela da Bolzano, è fantastico, e Alessandro da Bologna. Daniela, benvenuta e bentornata. Buongiorno. Eccoci qua. Con i buoni propositi non sono tanto ben messa, nel senso che ero partita bene, poi ho piantato lì. Sì, perché di buoni propositi l'ha stato all'inferno. Vabbè. E tutto quello che ha detto il dottor Perna è perfetto ed è vero, va bene, è così. E cerco adesso di riprendere il buon proposito per finire quello che avevo iniziato. Ok, e quindi? E quindi mi ci metto. Dai, forza Daniela. Infatti. Poi grazie. Tra l'altro Daniela, io la rimando al nostro Daily Lab che riprende da questa settimana. Laura Vanossi è felice perché me lo... Ecco, guarda che... Vero? Che eleganza. Daniela può andare sulla pagina di Essere Benessere e leggere i consigli dei nostri esperti che ci aiutano giorno dopo giorno, ci danno quell'ideuzza. Tra l'altro il dottor Speciani scrive, il professor Perna non scrive, anche farò però la abbiamo promesso invitato quest'anno. Uno dei suoi buoni propositi e troverà delle indicazioni. Se no scriveteci e noi rispondiamo. Daniela aveva una domanda oltre a questo... Io volevo chiedere al dottor Speciani per la colazione. Sì. Io sono una fautrice della colazione, faccio colazione appena alzata, mando tantissimo. Poi a Bolzano c'è un pane magnifico, vero? Bolzano è una città magnifica con delle panetterie straordinarie, dei dolci. Infatti il pane poi alla fine è una gran fregatura. Ma integrale? Di cui si parla, eccetera. Integrale ci piace però. Sì. E proteine? Quando mangia per prima colazione? Alla mattina allora mangio tutta una serie di semi, muesli, yogurt magro e frutta fresca e secca. In una terrina piuttosto abbondante, una ciotola grande, e questo d'inverno e questo d'estate d'inverno faccio un porridge di fiocchi d'avena perché fa un po' più freddino, va bene, eccetera, eccetera. E poi? Ecco, e dunque quando me lo posso permettere, pensando che magari vado a sciare o in bicicletta eccetera, poi comincio col pane, con la marmellata, con magari un pochino di prosciutto o di formaggio. E il problema è che io non mi fermerei a colazione mai. Però farebbe poi tutto. Non è malvagio. Una colazione sinoira, in Piemonte c'è la merenda sinoira che si fa intorno alle 6 e si continua. Lei farebbe una colazione sinoira. Dottor Speciani. Però va subito aggiunto un po'. Io direi che per una limitazione sulla quantità di carboidrati, anche buoni, perché il pane integrale bolzanino è buono mica da poco, potrebbe proprio essere quello del partire immediatamente con delle proteine, cioè decidere perché insieme a della frutta, che va benissimo, però aumentare la quantità di proteine. Lo yogurtino magro, quindi, un uovo, delle manciate di noci, non due. Nel muesli già preparato c'è una dominanza di carboidrati, di cereali. Bisogna proprio mettere di due uova sul piatto o una fetta di prosciutto e fare lo stesso volume circa anche in cereali. Di solito la gente mette un po' di cereali abbondanti e poi un pezzettino di prosciutto, un pezzettino. Bisogna aumentare un po' la quantità di proteine. Prima, fuori onda, anche il professor Perna diceva che in una dieta che lui aveva fatto si era reso conto individualmente, certo, che aveva bisogno di un aumento di proteine, che non è un eccesso, è una giusta perché la dieta cambia l'umore? Ma assolutamente sì. Devo dare, non posso più. Fermi, okay, tutti, stop! Carmelo Lauricella in regia ha detto stop, infatti è tempo di andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Il mio buon proposito è di essere puntuale. Essere e benessere. Insomma, io non sono come i cinque. Non ho artigli, né ali, né veleno. Perfino manti da quelle cosette. Forse dovrei mollare e tornare a fare gli spaghetti. Mollare, non mollare. Spaghetti, non spaghetti. Ti preoccupi troppo di ciò che era e di ciò che sarà. C'è un detto. Ieri è storia. Domani è un mistero, ma oggi è un dono. Per questo si chiama presente. E cominciamo a vivere proprio nel qui e nell'ora. Professor Perna, lei prima accennava alla relazione che esiste tra dieta e umore. Cerchiamo con tanti piccoli accorgimenti di avere l'umore giusto per vivere il quotidiano, no? Con in pienezza. Dovete sapere, questo lo sa benissimo il dottor Speciani, ma tutti gli ascoltatori alla stessa maniera, c'è un legame strettissimo fra il cervello e il sistema immunitario e il sistema endocrino. Questo asse è quello che permette poi di trovare un equilibrio meno, e lì agisce assolutamente una dieta, quella antinfiammatoria, piuttosto che l'utilizzo di altre sostanze. Un aneddoto piccolino, è proprio io, familiari giapponesi, e mia zia giapponese, in Giappone esiste una crema dolce di fagioli. I fagioli sono molto buoni, ma soprattutto sono ricchi di proteine, quindi a chi in qualche maniera è un po' preoccupato della carne, in qualche maniera o di altro, delle uova, può provare questo. Io personalmente la mattina un paio di uova con su il sale tartufato lo utilizzo, e vi assicuro che si sta però molto bene. Vede come si tratta bene il professor L'umore Perna, poi vero? Sì. E questa aggiunta di sale tartufato che... Sì, non si trova facilmente, sono dovuto andare proprio dove fanno il tartufo, l'ho trovato, quest'estate finalmente ho preso due intere boccette e sono felice adesso. Poco sale però, qua è caduto. Poco, un pizzichino, però ci dottor vuole. Speciani, lei non ha detto niente, mi verrebbe da dire, qua cade l'asino, ma non posso perché è un professor, perché sale poco. Poco, sale, non l'ho detto poco, tanto. Infatti poco. ha detto un piccolo accenno, tanto per insaporire. Insomma, tutto serve, anche gratificarci un po'. Sì, fondamentale. Anche soprattutto iniziare a farlo dal mattino, quando l'umore è un po' giù, aiuta a ripartire. Non viviamo come fossimo in un carcere, no. Quello voglio dire, con regole precise eccetera. Noi abbiamo un corpo che parla, se noi lo ascoltiamo bene ci dice quello che abbiamo bisogno. Io penso, e poi mi darei tu, Attilio, cosa ne pensi, che non esiste una dieta standard per tutti, esiste la dieta giusta per ogni singola persona. Dobbiamo scoprirlo con l'aiuto di chi è esperto, ma comunque scoprirlo senza essere troppo rigidi. Allora, buoni propositi, tanti consigli oggi per riprendere il ritmo, e anche la tecnologia può aiutarci a farlo. Molti di noi sono andati in vacanza e si sono portati e si sono tenuti stretti smartphone, tablet, che sono diventati proprio loro quasi, no, compagni di viaggio. Altri invece, un po' come ho fatto io, li hanno proprio dimenticati e non hanno fatto nulla. Ma è comunque, adesso che si riprende, la tecnologia diventa ancora nostra compagna nella quotidianità e può darci una mano. In linea con noi abbiamo Gianfranco Giardina, bentornato Gianfranco. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Che ci aiuterà a capire come fare un utilizzo sensato e buono della tecnologia, che può aiutarci a misurare il ritmo che abbiamo e magari aiutarci a prendere un passo nuovo. Ricordo che Gianfranco Giardina è direttore responsabile di dday.it. Gianfranco, siamo tutto orecchie, che cosa ci offre? Ma la tecnologia offre molto e anche ci lascia anche, ahimè, qualche insidia. Qui si parlava appunto giustamente di riprendere il ritmo e molte volte il ritmo delle nostre giornate è scandito proprio dalla tecnologia e soprattutto dagli smartphone. Si sa, oramai i sociologi se ne occupano da tempo, ma molti di noi sono ormai bulimici tecnologici, bulimici di, diciamo, dello smartphone in maniera abbastanza compulsiva, devono controllare in ogni momento le email, i social, e non sempre solo per esigenze di lavoro. L'esigenza di lavoro diventa molte volte una scusa, un parafulmine. Ecco che ci troviamo magari senza più il pretesto del lavoro e scopriamo che il nostro bisogno di rimanere collegati, connessi, interconnessi con gli amici andava ben oltre l'esigenza di lavoro e si sente una certa mancanza. Ecco, qui ognuno può misurarsi e si può essere misurato quest'estate appena che sta terminando, insomma, con il suo comportamento. Ecco, se sulle spiagge, nelle passeggiate in montagna lo smartphone l'ha lasciato spento nella borsa, in cabina, nello zaino, oppure l'ha tenuto nella tasca proprio portata di mano o addirittura in mano. In mano, se ne sono viste. E qui riprendere il ritmo, per certi versi, per chi ha abbandonato lo smartphone, può significare proprio ritornare connessi, ma io temo che per la maggior parte degli utenti riprendere il ritmo in questo caso sia semplicemente continuare a mantenere lo smartphone. Quindi abbiamo questo, pur staccandoci dai luoghi di lavoro e dalle abitazioni principali, andando poi in vacanza, lo smartphone ha molti difetti, questo comportamento, ma anche qualche pregio, ci tiene in qualche modo attaccati al nostro percorso principale di vita e dovrebbe, lo dicono, ammorbidire il rientro, perché è come se non fossimo mai andati via per certi versi. E ci sono anche delle opportunità per tenersi informati e quindi scegliere un po' la strada da percorrere. Beh, assolutamente sì. Giustamente sentivo dire dai vostri esperti prima che bisogna ascoltarsi, bisogna sentire i messaggi che il nostro corpo ci dà, non sempre e non tutti siamo capaci di farlo. Qui la tecnologia ci può aiutare come? Esistono dei sensori, di fatto mi viene in mente App, che è un braccialetto che è molto semplice, che si mette al polso, consuma pochissimo, quindi non ci dà lo stress di doverlo ricaricare costantemente, sta carico 10 giorni, e lui cosa fa? Fa il cosiddetto life tracker, quindi traccia tutti i movimenti che facciamo e quindi quando facciamo attività fisica, quanta ne facciamo, quanti passi facciamo, e poi è in grado, una volta inserito in modalità notturna, di determinare la qualità del nostro sonno e quindi stabilire sulla base dei movimenti che facciamo, con una buona approssimazione, quanta parte del nostro sonno, intanto quanto abbiamo dormito, quante ore, e poi quanta parte del nostro sonno è considerabile sonno profondo e quanto invece sonno un po' meno profondo o agitato. Quindi questo ci dà una fotografia reale di cosa stiamo facendo e di come stiamo vivendo questa ripresa. Ci piace una battuta ai miei due esperti, dottor Speciani, prima di andare a Lea che ha la risposta esatta. Ben interpretata, sì. Professor Perna? Ci piace, ricordandoci che il più importante orecchio siamo noi, no? Quindi non facciamoci tanto dare una mano, esatto. È un colpo alla botte, non lo so mai, è l'altro al cerchio. Grazie a Gianfranco Giardina per essere stato con noi, grazie per questa info, e abbiamo Lea che ci chiama da Verona. Lea, la risposta esatta è: la colazione deve rappresentare il 40%. Brava! Con una pentola a pressione, non Lea, ma il libro che riceverà Lea, scritto dal dottor Speciani, per riprendere il ritmo, riprendere il passo. Io ringrazio i miei due ospiti di oggi, grazie per avermi aiutato a riprendere. Carmelo Lauricelli, regia la parte tecnica. Anche Laura Vanossi è tornata e lì in redazione, bella abbronzata. E noi ci sentiamo via mail, ci sentiamo domani, insomma abbiamo ripreso. Teniamoci in contatto. Buona giornata. Essere e benessere.